sono Mork, ma vengo da Ork, navigando sul mio Riptide. Divento verde, ma non sono Hulk, faccio il figo sulle strade di Maie. Senza la Ferrari, ma con il Gat Tiger. Primi videogiochi a schermo liquido, Jeep Tiger. La mia prima auto, una Batmobile, a un solo posto. La mia prima donna era la Moon, una ristampa sotto costo. Presa di nascosto, il giornalaio che sbroccava e la prof che mi sbocciava. Il mio impegno era pari a zero, vero, smarrito sul sentiero. Ero impegnato per essere come Kenny il guerriero. Volevamo essere Picard, ma siamo tutti lo sceriffo di Azar. E come macchina una velocità, ma dura 5 attivare. Con la moto dei chips ho sempre pensato alle mie guai sulla Ferrari di Magnu. Sono talmente avanti che Nathan Never era nonno. Astro Boy già superato, a scuola andavo con il Gundam G, mentre te ti sentivi figo con il zia pedali. Bello stavi col capello cotonato tipo Brandon e la menavi a quelli come me che lottavano col mondo neanche fosse in palio il club del Sagittario. Quindi risultato ti sfondavo prima del secondo round. Dopo il primo Hadouken già vedevi il knockdown. Volevamo essere lady, ma siamo tutti genitori bruci. O i ragazzi della terza C. Curvatura 5 attivare, siamo ancora pronti a volare. Curvatura 5 attivare, siamo ancora pronti a volare. Ancora voglia di sognare, andare per andare, una storia fantastica, e alla fine arruolarmi sul Battlestar Galactica. Non ci riprendi neanche con l'anello del potere. Curvatura 5 attivare, siamo ancora pronti a volare. Curvatura 5 attivare, vaniti ferli, scandali su gente, le paparazzate di starlette, tu col gossip, noi fumetti, tu su finanza.it, noi ancora videogiochi, siamo differenti, ok, ci posso pure stare, ma anche tu una volta avevi il sogno di volare.